la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della prima volta. L'ospite di questa sera è Paola Bonora. Paola, buonasera. Buonasera. Paola è una musicista, l'abbiamo invitata per fare insieme a lei un percorso che è un percorso individuale, ma è anche un percorso collettivo che riguarda appunto passaggi musicali. Paola, innanzitutto racconta ai nostri ascoltatori che tipo di musicista sei, come nasce appunto la tua passione per la musica. Io vengo da un percorso assolutamente, diciamo, classico, e la mia storia musicale personale nasce da un colpo di fulmine, si può proprio dire così. Io sono nata negli anni 60 e in quegli anni 60, gli anni 60 e 70, Milano erano anni veramente di grandi sperimentazioni, di impegno sociale, di grandi rivoluzioni. Erano gli anni, per esempio, della legge Basaglia, dove veramente si aveva uno sguardo molto, molto lungo, molto bello. Tra queste grandi rivoluzioni ci fu quella della sperimentazione a livello dell'educazione, quindi le scuole sperimentali, e in particolare per esempio a Milano ci fu questa scuola bellissima che esiste tutt'oggi, che è la scuola di Via Vivaio, e quindi cominciarono loro per primi la sperimentazione musicale nelle medie. E lì ebbe inizio il mio primo giorno, il famoso colpo di fulmine. E noi eravamo le cavie, proprio i primissimi nella metà degli anni 70. Arrivai in questo posto, primo giorno di scuola, e poi ci convocarono tutti i ragazzi perché dovevamo scegliere gli strumenti che dovevamo fare durante l'anno, nel pomeriggio, proprio per questa sperimentazione musicale, quindi l'introduzione della musica nell'educazione delle medie. Quindi arrivai in questa auletta dove c'erano tutti i docenti di musica e c'erano tutti gli strumenti sulle scrivanie. C'era il violino, poi c'era il pianoforte, la chitarra. Io mi ricordo che sono entrata e la prima cosa che ho visto era questo strumento d'argento brillante, bellissimo. E mi sono innamorata di lui. E che strumento era? Era il flauto traverso. Era il flauto traverso. E com'è andata poi, diciamo, l'avvicinamento? Sicuramente c'è stato poi un periodo di studio, eccetera, però tu hai portato a casa tantissimi successi grazie al flauto, non ultimo la possibilità anche di suonare all'estero, a sì. Londra, ecco, raccontaci. Quindi ho fatto dopo questa, insomma, punto colpo di fulmine, ho fatto tutto il percorso conservatorio, poi mi sono trovata a Parigi, è stata una tappa importantissima formativa al Conservatorio Superiore. Le prime esperienze che si facevano dopo questo tipo di formazione classica per noi in quegli anni era proprio il percorso da orchestrale, era quello che ci aspettava il musicista d'orchestra, meraviglioso lavoro. E quindi la mia prima esistenza da professionista fu proprio con l'Orchestre de Paris e con i vari gruppi di musica contemporanea che c'erano, bellissimi, dove c'era Vinco Globocar, Michel Portal. Quindi ho fatto esperienza anche con l'IRCAM, sperimentazione musicale, quindi questa è stata la mia prima tranche di professionale. Ai ragazzi di oggi, secondo te, sono state date o vengono date le stesse opportunità, oppure, insomma, si è impoverito il panorama? Loro rispetto a noi hanno qualcosa che è, per esempio, l'Erasmus, cosa che noi non avevamo quando dovevamo partire. Noi siamo stati un po' i pionieri all'inizio, quindi partivamo con la valigia di cartone facendoci il segno della croce. Loro hanno l'opportunità di viaggiare, hanno l'opportunità di hanno dei mezzi come internet, per esempio, hanno l'accesso a una quantità di informazioni. Noi avevamo i vinili, ne potevamo comprare uno ogni mese, poi ce li prestavamo, cioè, però quello che offre poi invece, per quanto riguarda loro, lo svantaggio che hanno, che poi quando si affacciano nel mondo professionale non hanno il mondo che abbiamo avuto noi. Noi avevamo una quantità di orchestre, di gruppi, e purtroppo ultimamente un po' dappertutto, non solo in Italia, soprattutto in Italia, l'Italia ha risentito di più. I nostri enti lirici purtroppo stanno soffrendo tantissimo ancora. Il Maggio Musicale, dove io ho lavorato tantissimo è stato il mio primo incarico in Italia, ha sofferto tanto, soffrono ancora il Comunale di Bologna e la Fenice di Venezia, cioè stanno veramente facendo una grande battaglia, e per i giovani è molto difficile, molto purtroppo, sì. Continuiamo a parlare con Paola Bonora tra poco, dopo questa breve pausa. Parleremo soprattutto di musica medievale che state già sentendo qui in sottofondo. A tra poco. Prima volta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Eccoci qui di nuovo in compagnia di Paola Bonora, di nuovo assieme per parlare di musica, questa volta di musica medievale, un mondo al quale Paola, una flautista, arriva dopo un percorso molto lungo. Per arrivarci, diciamo che sei passata da Londra, sei tornata in Italia, insomma raccontaci un po' com'è andata, Paola. Ho fatto un breve periodo in Spagna, anche molto bella la Spagna, all'Orchestra Sinfonica di Galizia. E dopodiché mi sono spostata a Londra, non per motivi musicali, perché mi ero innamorata di un inglese, quindi del tutto casuale. Quindi mi trasferisco a Londra e non mi aspettavo di entrare, di essere paracadutata nel mondo del lavoro così velocemente. Ho fatto un'audizione per la BBC non aspettandomi nulla, essendo io, diciamo, di taglio francese, perché il mondo francese rispetto a quell'inglese dal punto di vista delle strumenta fiato è completamente diverso. Andai, feci questa audizione così tanto per cominciare il primo passo, e miracolosamente, non parlavo neanche inglese, mi diedero una grande chance alla BBC. E il mondo inglese è un mondo estremamente dinamico rispetto al nostro. E tu nel frattempo però hai anche coltivato una serie di interessi, diciamo, più specifici, nel senso che poi a un certo punto, uscita dal maggio, hai cominciato a orientarti a uno studio storico anche della musica, giusto? E qui arriviamo poi a quello che vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori, che possono, tra l'altro, poi vedremo come venire anche ad ascoltare. Ma partiamo, andiamo per gradi e partiamo dall'inizio. Quindi questo tuo percorso di musicista, di flautista, a un certo punto va in parallelo con una sorta di percorso tuo di storica della musica, è così? Sì, dopo tantissimi anni proprio come orchestrale, come musicista d'orchestra, soprattutto negli ultimi anni nel seno dei teatri d'opera, ho cominciato a chiedermi da dove venisse questo flauto, qual era la sua storia, no? perché ha proprio avuto un'evoluzione. Intanto lo strumento più, il primo strumento che è stato trovato è stato un flauto traverso che ha 40.000 anni, quindi la storia del flauto è immensamente lunga, e il flauto ha avuto un'evoluzione lunghissima. Cioè il flauto che noi suoniamo oggi è completamente diverso rispetto a quello che si suonava 200 anni fa, appunto nel barocco per esempio, dove il flauto traverso aveva proprio il massimo dell'importanza, della centralità. Questa cosa è la prima cosa che mi ha attirato proprio come sguardo verso il passato. Proprio, ho cominciato veramente a appassionarmi di tutta questa storia immensa di questo strumento affascinante. E quali sono state le tappe? Dicevi appunto, sei passata da un'esplorazione così generica, ma adesso dove sei nel tuo percorso? Dunque, nel mio percorso mi trovo in un'era molto lontana e ho chiesto ai miei colleghi, ditemi un nome di un esperto del Medioevo, e lì mi hanno subito fatto il nome di Claudia Caffagni, che è la direttrice dell'Istituto di Musica Antica della Civica Scuola Claudio Abbano di Milano, ed è la docente appunto anche del Medioevo, coordina i seminari al biennio e appena ho potuto... ho fatto parte del suo gruppo che da settembre scorso è partito insieme a un gruppo di 11 musicisti e ci ha guidati. Lei è la più grande esperta del Medioevo, un musicista incredibile, una donna fantastica, fondatrice del gruppo La Reverdì, che 30 anni fa hanno formato e sono veramente i pionieri di questo mondo. E ci ha guidato nella decodificazione di questi manoscritti. Quella cosa bellissima è proprio mettere mano su questi manoscritti medievali. Avete recuperato dei testi medievali? Esatto. Avete cominciato a studiare tutti assieme? Esatto, si recuperano facilmente in internet, hai accesso quindi alla Bibliothèque Nationale, dove appunto era conservato questo codice che abbiamo decodificato, che è il Codex Reina, che è un grande libro, è come per i jazzisti il real book o the best of, cioè loro raccoglievano tutte le canzoni, le più belle. E quindi c'è un grosso volume, enorme volume, e abbiamo cominciato a decodificare una piccola parte, perché il lavoro c'è ancora tantissimo. Quindi con la guida di Claudia Caffagni abbiamo decodificato dagli originali, con i microfilm, dove vedi proprio il materiale, la scrittura, gli errori, le sbavature, direttamente dalla fonte, ricostruire questi pezzi e suonarli. E poi c'è anche proprio un aspetto bellissimo, quello di ricostruire gli strumenti, che purtroppo non è rimasto praticamente niente degli strumenti medievali. Quindi bisogna, attraverso una ricerca iconografica, ricostruirli. Quindi c'è proprio anche un lavoro organologico, per esempio per quanto riguarda il flauto traverso, cioè la traversa, quella che doveva essere lo strumento, il flauto traverso del Medioevo. È stato fatto un grandissimo lavoro anche da questo artigiano che mi ha costruito recentemente questo strumento, che è Giovanni Tardino, che vive a Basilea. Con lui abbiamo ricostruito una traversa medievale e riportato in vita questo suono, perché letteralmente è proprio un altro suono. E quando è che sarà possibile anche per i nostri ascoltatori ascoltarlo questo suono? Dunque, il gruppo appunto di Claudia Caffagni, il nostro gruppo, ha già fatto un concerto a Venezia per il mese scorso per la Fondazione Levi, e faremo una replica il 28 giugno alla Villa Simonetta nel cortile interno per le Notti Trasfigurate. E la cosa bella è che facendo tutto questo percorso di un anno insieme a questi musicisti abbiamo deciso di formare noi un gruppo autonomo, abbiamo deciso di formare un gruppo medievale che si dedica esclusivamente alla trascrizione e al riportare in vita tutto un patrimonio enorme che noi abbiamo in Italia, no? E questo gruppo che è formato da Luca Tarantino ai pizziche, agli uti, Gaston Polle Ansaldi alla tastiera, e Daniela Beltraminelli voce viella, Kairi Kiosk alla voce e io Paola Monora alla traversa. Si chiama Volta Stella, è proprio appena nato, è una stella appena nata. Faremo questo concerto appunto il 28 giugno insieme agli altri nostri compagni. Senti, un'ultima domanda, poi ci dobbiamo fermare anche per questo appuntamento, riguarda come si vive facendo musica, cioè nel senso con questo anno alle spalle di lavoro che probabilmente è stato anche un lavoro di grande studio, di grande ricerca, cioè voi come avete fatto? Cioè avete avuto delle sovvenzioni? Cioè a che punto è la musica anche nella ricerca? Molto indietro purtroppo. Quindi ognuno di voi insegna o fa altro e poi si esatto, dedica a questo. Esatto, tutti noi siamo docenti, io sono docente al Conservatorio di Bergamo, anche gli altri lavorano come insegnanti di musica in conservatori, oppure hanno attività in altre, ad esempio con lo strumento moderno in orchestre, che gli garantiscono comunque, per quanto riguarda la musica medievale, è proprio un investimento personale che noi facciamo proprio noi per amore, proprio per grande passione di questa cosa. È tutto, ci dobbiamo fermare qui, scriveteci, tutti i riferimenti li trovate sul sito di Radio 24, basta cercare La Prima Volta, li potete riascoltare questa e tutte le altre puntate. Intanto io vi auguro buonanotte e un buon inizio di settimana, vi lascio sulle note di Handel, ciao a tutti da Cristina Carpinelli.